Sono qui nella mia stanza, lucine e paure, senza storia d'arroganza, solo il tempo scorre in me con il sole di novembre. Forte, tempo di pensare, con un brivido di ghiaccio nella schiena mi pervade. Nana, nana, nana. Come tutto ciò che ha senso, forse mai niente è dovuto. Il mio pensiero corre forte, non ha paura della morte. Ho deciso, parto e andiamo, dove andiamo non sappiamo. Tutto ciò che non vogliamo, a casa noi lo lasceremo. Nei programmi, nei bersagli, niente tappe programmate, né consigli, né cartine, voglia solo di avventura. Nana, nana, nana. Apro gli occhi per vedere se son sveglio o sto dormendo. Questo mondo non ha senso, questo mondo ti divora dentro. Ti dà il tempo di pensare a me.